cos'è quest'estate? Di Deborah Rosciani. E buongiorno a tutti, ben trovati a Ma cos'è questa estate? Il nostro rotocalco del mattino dedicato ai temi di attualità che stanno animando questa estate 2017 che purtroppo a livello internazionale sta caratterizzandosi da una parte per le enormi preoccupazioni fra le grandi città europee dopo l'attentato sulla Rambla di Barcellona di settimana scorsa che, come sapete, è costato la vita a due italiani e anche a una italo-argentina, ma c'è anche la nuova ondata di fermento razzista in alcuni stati americani che stanno di nuovo mettendo a dura prova e sotto esame il presidente Trump, finito sotto i riflettori perché, come ricorderete, la sua condanna degli episodi di Charlottesville è stata così a metà, non piena. Nei movimenti di protesta continuano, nelle ultime ore hanno riguardato anche altre importanti città americane. Noi oggi ne parleremo, ma nella nostra nutrita scaletta abbiamo anche in programma di commentare alcuni episodi di razzismo che si sono invece consumati nel nostro di paese. Parleremo anche della stagione turistica per raccontarvi cosa è successo in alcune località italiane dove i sindaci, ma anche alcuni responsabili di stabilimenti balneari, hanno particolarmente a cuore, come dovrebbe giustamente essere, la tutela ambientale. Con grande soddisfazione dei turisti sentirete che iniziative hanno messo in piedi. Come tema di apertura e primo approfondimento, però, parliamo di quello che secondo noi estate, inverno, primavera o autunno è il tema dei temi, il lavoro. Come sentirsi a casa, come hai fatto spesa, allora com'è che poi per cena mi dici ho preparato tutto quello che c'è, ti senti sola, che c'è. È una canzone che si intitola Senza un lavoro fisso di Fabio Santini. Noi parliamo di lavoro perché certamente molti sono ancora in vacanza, per molti sottoscritta compresa le vacanze si sono concluse, ma non solo per la sottoscritta. Guardate, lo salutiamo già, Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore, pure per te le vacanze sono ormai un lontano ricordo. Sì. Buongiorno Deborah, tra l'altro tu eri meritatamente in vacanza settimana scorsa, ma già io tormentavo gli ascoltatori con la rassegna stampa, mi è successo anche questo. Hai parlato anche di lavoro? Ho parlato naturalmente anche di lavoro, perché il lavoro in un certo senso è il problema. Esatto. Dell'italiano, non solo italiano, la ricerca di lavoro, l'inserimento di lavoro nel lavoro per i giovani. Esatto. L'uscita dal lavoro, quando parliamo di flessibilità in uscita, le pensioni, quindi sempre attorno a questo giriamo. E gira la vita di noi tutti, insomma. I dati sono ancora troppo preoccupanti quando parliamo di disoccupazione italiana per quello che riguarda il nostro paese. Sono dati che fanno a pugni con l'altra importante statistica, almeno sembra apparentemente, che è stata diffusa la settimana scorsa, quella sulla crescita del nostro paese. Il PIL ha avanzato nell'ultimo anno di 1,5 punti circa, no? Se non ricordo male. Dato che questo dato praticamente ha permesso il rilascio di molti commenti di soddisfazione da parte anche di molte aree politiche, in particolare del governo, c'è anche chi ha aggiunto anche delle considerazioni appunto in più. Per esempio il ministro dell'economia Padoan ha spostato il focus su un tema specifico, quello dei giovani. Ora focus sui giovani, ha detto, incentivi alle assunzioni per i giovani non si è fatto abbastanza, la crescita economica diffusa comincerà a produrre benefici anche per loro, favorendone l'ingresso in un mercato del lavoro reso più dinamico e propenso alle assunzioni, ma misure specifiche per favorire l'inizio di un percorso lavorativo dovrebbero accelerare questo recupero. Le poche risorse a disposizione per la manovra andranno concentrate su misure per incentivare le assunzioni dei giovani che cercano lavoro. E proprio su questo piano, che sarebbe allo studio da parte del governo, ci concentreremo invece noi questa mattina. Da giorni se ne scrive su tutti i giornali e noi oggi vorremmo conoscere quanti più dettagli possibili appunto di questo piano di rilancio dell'occupazione giovanile. Lo faremo insieme a tanti ospiti, però Mauro, sono le 8:15, prima di presentarli abbiamo un altro impegno. Assolutamente, che è il mio abituale grido di battaglia, allora sono proprio contento di ripeterlo anche questa mattina. Cara Deborah, cari ascoltatori, traffico! Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Ma cos'è quest'estate? Il mio nome è Matteo Moretti e sono un luogo comune. Avete presente quei giovani, non più così giovani, di cui ogni tanto parlano in TV scuotendo la testa con rassegnazione? Ecco, quei giovani sono io. Guadagno 1.000 euro al mese per fare un lavoro che non mi piace in un'azienda a cui non piaccio io. E tutti non fanno altro che ripetermi quanto sono fortunato. Non so se mi rinnoveranno il contratto, non so dove sarò tra 6 mesi, non so quale sarà il mio futuro, non so niente di niente. È un po' come se fossi il personaggio minore di un videogioco non tanto bello. Quello che faccio lo decide qualcuno che non sono io. L'unico lusso che mi concedo è non solo non credere nei sogni, ma non credere neppure nella realtà. La cinematografia ci rende possibile, ci aiuta spesso, e oggi abbiamo deciso appunto di ricominciare per parlare di questo argomento di lavoro con il brano tratto dal film Generazione 1000 euro, che abbiamo scomodato migliaia di volte anche in altre trasmissioni del passato per così sottolineare l'importanza di questo argomento e sottolineare le difficoltà in cui si trovano molti giovani che poi tra l'altro, ecco, Matteo magari non aveva proprio l'impiego dei suoi sogni, il protagonista di questo film, ma ce ne sono altri invece che non hanno nessun impiego, Mauro, per cui il tema è ben altro. A questi sta pensando il governo, che ha l'obiettivo di inserire in legge di bilancio appunto questo piano di stimolo fiscale e contributivo destinato alle imprese appunto per l'assunzione di giovani under 32, quindi l'obiettivo appunto è questo. Noi stamattina ne parliamo con i nostri ospiti, intanto li presentiamo, li saluto. Luigi Bobba, sottosegretario al lavoro e politiche sociali, buongiorno sottosegretario, grazie di essere con noi questa mattina. Buongiorno, buongiorno. Marco Bentivogli, segretario generale della FIM CISL, quindi anche il mondo del sindacato, sentiremo quest'oggi su questa iniziativa allo studio del governo. Bentivogli, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. E grazie anche per essere con noi Maurizio Del Conte, docente di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, ma soprattutto presidente in questo momento di ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive per il Lavoro. Del Conte, professore, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Peraltro non ho ricordato che gli ascoltatori anche stamattina possono intervenire alla nostra trasmissione. Anzi, ci fa molto piacere, perché così abbiamo l'opportunità di verificare anche con loro l'efficacia magari di qualche misura. Si è parlato di dare più stabilità, l'ho detto lo stesso Presidente del Consiglio, di completare il percorso del Jobs Act. Allora scriveteci, ditecelo. Ricordiamo il numero, Deborah? 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta. In alternativa potete scriverci al 349 238 6666. So che favorite particolarmente WhatsApp ovviamente, ma potete farlo anche attraverso gli SMS. Hai fatto bene a ricordare tu le modalità per intervenire in diretta, perché ti devi abituare a dare queste informazioni di servizio, Mauro, visto che dal 4 settembre mi sento un po' come fosse un provino, cara Deborah, esatto. Perché è vero, dal 4 settembre faremo coppia fissa da lunedì a venerdì alle 11, giusto? Io avrò il privilegio di condurre con te appunto tutti i giorni dalle 11 due di denari. Quindi peraltro questo sarà magari il tema del lavoro, uno dei temi sui quali vorrei che l'attenzione fosse massima da parte nostra. Che ne dici? Anche perché avremo l'opportunità di raccontare proprio a due di denari quale sarà la genesi di queste misure, che per adesso sono solo ipotesi, quelle che ricordavi tu, appunto. Sgravi contributivi per 2 anni, per 3 anni, per sempre, per chi assume under, esatto, 32, cioè giovani senza occupazione fino ai 32 anni. Visto che sono ancora delle ipotesi, andiamo alla fonte ufficiale di questo piano. Allora, sottosegretario Bobba, incarico lei di darci qualche dettaglio in più rispetto a quello che il governo sta studiando. Quello che si sa è che certamente potrebbe essere un piano piuttosto costoso, no? Perché potrebbe costare circa 1 miliardo quest'anno e 2 miliardi a regime a partire dal prossimo anno, ma soprattutto l'obiettivo è rendere questo regime di incentivi per le imprese qualcosa di strutturale, non più di una tantum, perché sappiamo bene, il Sole 24 Ore lo racconta spesso, che non appena poi gli incentivi terminano, le imprese ovviamente non hanno più queste possibilità e non assumono più, un po' come è successo anche nel recente passato. Sottosegretario Bobba, cosa può dirci in più rispetto alle indiscrezioni giornalistiche che sono state pubblicate in questi giorni? Ma ecco, intanto, come voi avete detto, si tratta per ora ancora di ipotesi che sono sul tavolo di un tavolo di lavoro, quindi non c'è ancora niente di definitivo. Ciò che in qualche modo invece è definitivo e prioritario è il fatto che nella legge di bilancio ci sarà un intervento strutturale, sostanziale, importante, dedicato proprio agli incentivi per sostenere, per favorire l'occupazione giovanile. Ricordo anche che in questi anni c'è stato comunque, una contrazione della disoccupazione giovanile, da circa il 43% a poco più del 35%, ma certamente questa, diciamo, difficoltà è ancora l'elemento prioritario su cui concentrarsi. Le misure che sono, diciamo, allo studio o che sono già state avviate sono sostanzialmente quella che voi ricordavate, cioè uno sgravio contributivo selettivo per sostanzialmente 2 o 3 anni dedicato proprio a coloro che sono appunto giovani, e questo dovrebbe, diciamo, spingere le aziende, come è accaduto per la prima fase in particolare del Job Act, a, diciamo, privilegiare l'assunzione da parte delle stesse imprese di giovani, e credo che questo, diciamo, sarà una misura a rinnovare profondamente il capitale umano anche delle stesse imprese, perché nella realtà oggi delle nostre imprese noi abbiamo, diciamo, un capitale umano che si è sostanzialmente invecchiato, una forza lavoro che si è invecchiata. In secondo luogo vorrei ricordare il fatto che in autunno partirà la seconda fase del programma Garanzia Giovani, no? Che è un programma che, diciamo, ha avuto uno sviluppo dal 2014 ad oggi e che adesso è stato rifinanziato sia dall'Unione Europea che dal governo italiano, e che in qualche modo è dedicato sicuramente a trovare degli strumenti per favorire l'occupabilità del giovane. Soprattutto di quelli cosiddetti NEET, no? Sottosegretario Bobba, e non impiegati in nessun percorso formativo, professionale e lavorativo, appunto. Quindi assolutamente proprio... sì. Un terzo strumento è quello di rafforzare quello che era già stato una via intrapresa con il Job Act, il cosiddetto apprendistato formativo e sistema duale. Noi oggi abbiamo in molti casi occupazioni che non trovano persone che abbiano le competenze per poter effettivamente, diciamo, ricoprire quel determinato ruolo. Abbiamo avviato la sperimentazione con un determinato successo, vogliamo rafforzare questi strumenti che consentono di studiare e lavorare insieme, insomma di conseguire un titolo formativo e allo stesso tempo già di essere alla prova nel campo lavorativo. In qualche modo uno strumento simile è anche quello dei cosiddetti ITS, istituti tecnici superiori, che hanno dato risultati molto importanti, 2 anni di formazione terziaria dopo il diploma, che hanno visto, diciamo, un successo occupazionale dei giovani che hanno frequentato questo tipo di corsi, che va rafforzato anche questo. Quindi un complesso di misure che guardi, diciamo, alla realtà giovanile come l'elemento prioritario, sia incentivando le imprese ad assumere giovani, sia soprattutto anche ricollegando scuola, formazione e lavoro, perché non dimentichiamo mai che una parte, diciamo, anche di questa disoccupazione giovanile è non di carattere strutturale, ma di una mancanza di competenze, cioè delle competenze adeguate per Infatti, poter ricoprire. Il Sole 24 Ore sta attivamente occupandosi proprio di questa, sì, di questo gap, no? È così, perché infatti anche oggi ricordiamo che ci sono i cosiddetti laureati mancanti, cioè ci sono delle previsioni di assunzione per il trimestre che è in corso, dei dati di assunzione per luglio, delle previsioni di assunzione, e si nota come per alcune lauree o per alcuni percorsi formativi, l'informatica, ma gli stessi formatori e poi i tradizionali ingegneri, non ci siano le figure cercate dalle imprese. Ma noi ce ne siamo anche sì, nelle attività, diciamo, tecnico-professionali, non, diciamo, di livello di laurea. Io sono stato proprio alla fine di luglio alla Confartigianato di Milano e mi è stata descritta una situazione dove su una fascia di figure di professionalità, diciamo così, tecnica, mancano le persone, avrebbero le potenzialità le imprese di crescere, di acquisire nuove commesse, ma non trovano le persone con quelle determinate qualificazioni. Quindi rivedere anche il sistema di formazione professionale sia prima del diploma che il dopo il diploma è essenziale proprio per coprire questo gap. Alcune grandi agenzie del lavoro questo gap lo chiamano l'ultimo miglio e hanno anche provato a darsi da fare appunto proprio per formare le persone in modo tale che una volta che all'agenzia del lavoro arriva il curriculum e dall'altra parte arriva anche la richiesta, la segnalazione da parte di un'azienda di determinate posizioni scoperte, se questo match, no, come lo chiamiamo, non si realizza, ci vorrebbero pensare anche le agenzie del lavoro a fare quest'ultima parte di formazione in modo tale da collocare direttamente le persone. Noi anche con Cuore e Denari, con Nicoletta Carbone, ce ne siamo occupate in tantissime trasmissioni, avevamo lanciato questa iniziativa che avevamo ribattezzato Chi cerca non trova, proprio perché c'erano arrivate tante segnalazioni di aziende con posizioni scoperte non in grado di trovare sul territorio nazionale appunto figure professionali capaci di coprirlo. Dall'altra parte hai anche però, Mauro, hai anche la situazione invece dei giovani che si lamentano che non trovano lavoro, forse perché non sanno neanche bene come candidarsi. È anche vero che a volte le professioni scoperte hanno anche delle definizioni incomprensibili e magari hai anche le competenze per poterle coprire, per poterli fare certi lavori, ma non sai bene come candidarti. Il problema è molto più ampio di quanto non immaginiamo. Sì, e poi c'è una condizione generale che è quella che ricordiamo nei dati anche oggi sul Sole 24 Ore, ma sono dati che girano già da diversi giorni. Negli ultimi 12 mesi 428.000, un saldo positivo di contratti 428.000, però a termine. Quelli a tempo indeterminato sono 21.000. L'apprendistato, e me l'ha fatto venire in mente proprio il sottosegretario parlando dell'apprendistato formativo, ha avuto un saldo positivo ma di 48.000 unità, quindi è uno strumento che ancora vale un decimo rispetto all'impiego a termine. Allora evidentemente sarà un problema di formazione, sarà un problema anche di congiuntura complessiva, per cui le aziende non si sentono ancora abbastanza sicure della ripresa da poter investire sulle persone, però è palese, questi numeri ce lo dicono in modo incontrovertibile, che si debba adottare una terapia d'urto. Penso che il sottosegretario ce la possa confermare, insomma, adesso non so se i 2-3 anni o quanto tempo e quanto di sgravio possiamo già dire. Sottosegretario Bobba è un attimo caduto, allora adesso lo recuperiamo. Direi di poter fare una cosa, se Peter è d'accordo. Andiamo alla nostra pausa prima di far intervenire anche gli altri due ospiti che abbiamo fatto svegliare presto questa mattina. Non vorrei che pensassero che li abbiamo così chiamati solamente per sentire noi, ma siamo molto interessati invece alla voce del sindacato e anche a quella dell'attività dell'ANPAL. Quindi Marco Bentivogli e professor Del Conte tra poco con noi. Sentiamo però adesso la prossima pausa, dopodiché riprendiamo appunto con il nostro tema di stamattina. Ma cos'è quest'estate? Eccoci ritrovati in diretta, allora 800 24 00 24, potete utilizzare il numero verde anche questa mattina per intervenire nel corso del nostro programma. Abbiamo deciso di iniziare questa settimana e questa puntata con il tema del lavoro perché si fa un gran parlare in questi giorni di questo piano che il governo avrebbe allo studio, l'obiettivo di inserirlo in legge di bilancio per rilanciare l'occupazione giovanile. Si parla di dimezzare i contributi previdenziali per le imprese che assumano giovani fino a 32 anni, un maxi sconto che potrebbe durare 2 anni di contratto, c'è chi vorrebbe allargare l'arco temporale a 3 anni, poi questo dimezzamento dei contributi previdenziali verrebbe sostituito da una riduzione più contenuta di circa 4 punti percentuali destinata però a durare tutta la vita lavorativa, senza alcuna ricaduta un aspetto poi pensionistico dei giovani. Mauro Meazza questa mattina mi sta aiutando a capirne qualcosa di più con i diretti interessati, perché abbiamo il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba, e la somma non versata dall'azienda sarebbe coperta dallo Stato, che deve tirar fuori un bel po' di soldi. Quindi questo significa che non c'è una lesione nel futuro previdenziale, anche se diciamo i due problemi si legano, e anche qualche ascoltatore ce lo stava dicendo. Esatto. Beh, ma come riusciamo a conciliare la necessità di alzare l'età pensionabile e quella di favorire l'ingresso dei giovani? È evidente che il problema, anche se più volte lo stesso presidente dell'INPS ha detto ma non c'è un legame diretto, questo può essere vero, ma inevitabilmente se il lavoratore viene trattenuto di più sul posto di lavoro in età più avanzata, e, uh-huh, ebbene ci saranno meno disponibilità di ingressi, di nuovi ingressi per i giovani. Tra l'altro avevi lanciato una domanda al sottosegretario Boba prima della pausa, volevi avere qualche dettaglio in più sul taglio? Se sono già disponibili, sì, dei dettagli, e soprattutto appunto sulle, se ci conferma l'entità dello sgravio, se quello è l'ordine di grandezza a cui stiamo, su cui stiamo ragionando. Poi 2-3 anni, abbiamo visto che c'è sempre poi questo rimbalzo bruttissimo, per cui appena finiscono gli aiuti, esatto, il tutto diciamo si ferma. E allora se stavano pensando qualche cosa anche in modo permanente accanto a questo sgravio extra, per dir così. Dopo che ci ha raccontato tutto lo spirito dell'iniziativa, sottosegretario, in termini concreti, insomma, su cosa lavorerete? Ma ci sono ancora diverse ipotesi in campo, certamente la scelta sarà anche legata a quanto sarà il costo di queste misure, sia quelle, diciamo così, con un arco temporale più ristretto, sia quelle di tipo strutturale. Quello che voglio sottolineare è che bisogna mettere in campo tutti gli strumenti. Certamente gli incentivi saranno importanti proprio perché selettivi e proprio perché concentrati sui giovani, ma anche le altre misure sono essenziali, perché se vogliamo, diciamo così, aumentare la base occupazionale, cioè quindi abbattere quel muro del 35% di giovani senza un lavoro, dobbiamo usare tutte, diciamo, le cartucce a nostra disposizione, non solo qualcuna, per evitare appunto un effetto che dura, diciamo, in modo limitato nel tempo. Voglio anche ricordare che, per esempio, uno strumento che in questi anni abbiamo valorizzato è stato quello del servizio civile, un'opportunità di messa alla prova di un servizio alla comunità, ma anche di acquisizione di quelle competenze, di quelle soft skill che normalmente i giovani quando escono dalla scuola non hanno. E abbiamo visto da una recente ricerca fatta da INAF che i giovani che hanno fatto servizio civile più facilmente trovano un lavoro proprio perché hanno acquisito quelle competenze. Cioè, quindi dobbiamo utilizzare un raggio d'azione ampio, così come nel piano del governo ci sarà anche un rafforzamento dei centri per l'impiego, perché se non ci sono anche dei servizi che facciano quell'accompagnamento dei giovani verso il lavoro, in molti casi in quel territorio indistinto i giovani un po' si perdono per strada e perdono soprattutto tempo e mesi e anni preziosi della loro vita. Così come anche per le imprese l'utilizzo, per esempio, dei contratti di apprendistato formativo, che era diventato una specie di panda nel nostro sistema contrattuale, è una riconversione anche culturale nel rimettere, diciamo, questo strumento tra gli strumenti ordinari, diciamo, del modo per assumere, per inserire, per qualificare dei giovani, e questo cambiamento richiede un po' di tempo. Proprio l'incentivo che abbiamo messo anche per le aziende che prendono questi tipi di contratti per il tutor aziendale è un modo di stare vicino alle imprese in questo cambiamento anche di approccio nel modo di avvicinare e formare dei giovani. Naturalmente sullo sfondo la speranza anche che la crescita di questo paese, attestata all'1,5% settimana scorsa, continui con questo tenore, questo, perché questo certamente aiuta. Se manca questo, ecco, difficilmente gli altri strumenti possono dare dei risultati convincenti. E anche il tema della fiducia, appunto, che accompagna il tutto. Peraltro sull'attività dei centri per l'impiego adesso scaldo anche il professore Del Conte, presidente di ANPAL. Però vorrei andare anche a ascoltare l'impressione, le considerazioni del mondo sindacale. Marco Bentivogli, leader di FIM CISL, metalmeccanici aderenti appunto alla CISL, e anche autore del recente libro Abbiamo rovinato l'Italia, si è chiesto come titolo perché non si può fare a meno del sindacato. Che commento porta Bentivogli sull'iniziativa che sta scaldando i motori appunto da parte governativa? Il sindacato cosa ne pensa e che rapporto ha il sindacato con i giovani, con gli under 30 e con i NEET? Ma allora sono un po' più di una le domande a cui rispondere. Il rapporto dei giovani col sindacato è un rapporto difficile, è un rapporto su cui stiamo lavorando molto, perché le nuove generazioni hanno delle forme contrattuali o spesso sono senza lavoro o hanno dei lavori che li tengono spesso lontani dalle forme tradizionali di rappresentanza del sindacato, per cui invece di chiedere a loro di venire verso di noi, dovremmo andare noi verso di loro con una grande capacità di cambiamento, non solo a parole, come spesso si fa, ma attraverso forme organizzative, proposte sindacali nuove. Dal punto di vista della valutazione, adesso per quello che apprendiamo, adesso anche ascoltando Poppa, finalmente si comprende che la questione giovani non è una questione elettoralistica. Cioè, il tema dell'occupazione dei giovani, tutti i paesi lo risolvono con tantissime politiche, tra cui anche un incentivo, ma non a termine, un incentivo strutturale sulle assunzioni dei giovani. Però questo non basta. Noi siamo alla vigilia della quarta rivoluzione industriale e se c'è un problema grandissimo è il gap di competenze dei nostri lavoratori e dei nostri giovani. E unito a quello di cui parlavate anche insieme a Meazza, cioè quello che si chiama lo skill mismatch, cioè le professionalità disponibili sono spesso diverse da quelle che sono le professionalità necessarie. Questo significa che io aggiungerei due caratteristiche alla condizione per erogare l'incentivo. La prima, io punterei tutto sull'apprendistato. Capisco, non è facile, ma se andiamo verso un mondo in cui la competenza sarà la cosa più importante per avere un lavoro e un lavoro di qualità, serve formazione solida in ingresso al lavoro. E infatti 48.000 nuovi apprendisti sono dati incoraggianti, ma sono nulla dal punto di vista del valore assoluto. Questo è un dato assolutamente da considerare. Il secondo aspetto è che questi incentivi devono andare verso un lavoro stabile. Allora, come si fece per il Jobs Act con il contratto a tutele crescenti, che comunque è un contratto a tempo indeterminato, bisogna pensare altrettanto. Quindi vincolare questo, l'erogazione di questi contributi alla tipologia anche contrattuale che viene sottoscritta con il lavoratore. Noi in un contratto, quello di Confimi, abbiamo costruito al via contrattuale una forma di ingresso al lavoro che si chiama Socrate, che riduce il salario in ingresso al lavoro come incentivo di ingresso al lavoro ai giovani, ma se l'azienda poi non lo riconferma a tempo indeterminato, l'azienda dà tutto il gap, il delta salariale di convenienza che ha avuto per l'assunzione, lo restituisce tutto al lavoratore. Cioè, questo è un paese in cui ci sono tante esperienze virtuose e che per fortuna iniziano a partire. Il fatto che abbiamo superato con le esportazioni la Germania, almeno in questo ultimo dato, è un dato sicuramente di cui essere solo che contenti. Però ci sono anche spesso tanti abusi. E se si pensa che il lavoro del futuro è un lavoro precario, difficile, quello appunto di Matteo della generazione 1000 euro, quello non è l'orizzonte verso cui muovere, è un orizzonte di precarietà che non dà stabilità non solo ai ragazzi, ma non lo dà al paese. In una fase in cui bisognerebbe smetterla di fare tanta retorica dei giovani e guardare i dati della povertà dei giovani. Per la prima volta l'Istat è arrivata a censire il fatto che la condizione giovanile corrisponde, specie se c'è bassa istruzione, a una condizione di povertà. Questo dovrebbe essere l'allarme principale e per cui io sono d'accordo che le politiche del governo centrino, mettono un focus su questo tema. Intanto i commenti che arrivano dagli ascoltatori sono tanti, toccano i tanti punti che abbiamo affrontato questa mattina. C'è chi sottolinea la difficoltà da parte delle agenzie del lavoro a trovare e reperire le professionalità che le aziende chiedono. Molti commenti anche sui giovani che si adagiano sulla disoccupazione, sulle spalle ancora larghe dei genitori, altri genitori preoccupati che, come spesso capita, si mettono loro in prima linea a cercare opportunità professionali per i figli. Infatti c'è un papà di due ragazzi in età formativa che ci dice: ci date qualche indicazione in più sulle figure scoperte, e altri che chiedono ancora. Insomma, mandiamo curriculum in ogni modalità possibile, nessuno risponde, Mauro. Vabbè. Allora, sul padre che cerca delle informazioni, naturalmente faccio un po' di sostegno a quanto solidate, pubblichiamo infatti Oggi sul Sole 24 Ore. Peraltro è una ricerca condotta da, sono i dati Union Camere e ANPA, le possiamo chiedere anche direttamente al professor Del Conte. C'è una tabellina che dice, ci dice che mancano gli informatici, mancano i fisici, mancano i chimici, mancano gli ingegneri, però mancano anche i formatori e anche gli laureati in lingue, perché manca anche una competenza dal punto di vista linguistico. Non so chi sotto stesse parlando dei nostri ospiti, ma direi di andare a sentire il professore Maurizio Del Conte, che peraltro già in questi giorni è stato più volte disturbato da molti giornalisti perché si è fatto un primo bilancio dell'iniziativa sperimentale che sta chiudendo la fase sperimentale proprio in questo momento, quello dell'assegno di ricollocazione, e so che i primi di settembre, professor Del Conte, lei incontrerà le parti sociali e le regioni per analizzare i risultati di questo primo anno delle nuove politiche attive per il lavoro, appunto, e tracciare i passi successivi. E lei è stato molto interpellato proprio in queste ultime settimane per dare un contributo forte, quello che arriva anche da questi suoi mesi alla guida dell'Agenzia appunto per le politiche attive, per la stesura del piano di rilancio dell'occupazione giovanile. Che cosa ci dice rispetto a quello che ha sentito fino a questo momento? Insomma, è possibile mettere in piedi un impianto che abbia una caratura strutturale e non temporanea, perché questo a quanto pare è quello di cui c'è bisogno. Professor Del Conte. Ma sicuramente è possibile e sicuramente anche tutti gli stimoli che sono venuti dagli interventi precedenti ci dicono una cosa, e cioè che bisogna fare ordine, bisogna avere un piano complessivo, bisogna mettere in fila gli strumenti perché non si lasci da solo nessuno. È importantissimo accompagnare i giovani in questo momento, sono una priorità, ma quando si pensa al mondo del lavoro bisogna pensare a tutte le età, a tutte le condizioni, perché si incastrano l'una nell'altra. Non esiste un mercato del lavoro sbilanciato solo sugli anziani o sbilanciato solo sui giovani. Se esiste, è un mercato del lavoro inefficiente che spreca opportunità. Quindi quello che dobbiamo fare, la creazione dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ha questo senso, è un disegno complessivo e ordinato, dove ci sia una regia, dove ci sia una visione di insieme. Ho sentito molto parlare degli incentivi, ne avete parlato all'occupazione per i giovani, e credo che siano importantissimi nella misura in cui riorientano appunto le imprese a cercare nelle forze fresche la propria base occupazionale. Però noi dobbiamo anche metterci dal punto di vista del giovane, il giovane, il ragazzo, la ragazza che ha 15-16 anni e che incomincia a farsi delle domande sul suo futuro lavorativo in funzione anche della formazione che vuole fare. Bene, da chi è assistita? Prima sentivo dire che ci sono i padri che telefonano, che si occupano, sì. Però che fanno orientamento. E che fanno orientamento, ma questo è un bisogno naturale ma non efficiente. Noi dobbiamo creare un sistema, una filiera ordinata di orientamento, partendo proprio dalla conoscenza del mercato del lavoro, dalla conoscenza della domanda delle imprese, delle professionalità che le imprese richiedono. Avete citato prima la indagine ANPAL Union Camere, e noi non possiamo pensare di dire ai giovani cosa devono studiare se prima non sappiamo come funziona il mondo delle imprese, che cosa ricercano le imprese. E non possiamo neanche lasciare i giovani nelle mani dei genitori, dello zio o dell'amico che magari per un'esperienza personale porta il giovane a fare una scelta che poi non è una scelta corretta e di successo. Allora, ricostruire la filiera della formazione. Come ANPAL noi daremo una mano al Ministero dell'Istruzione nella alternanza scuola-lavoro, mettendo a disposizione delle persone formate, dei professionisti che aiutano proprio a far incontrare le imprese con le scuole, due mondi che non sempre si sono parlati, anzi molto spesso si sono visti con un qualche sospetto reciproco, e invece bisogna andare verso quello che succede nei paesi europei più avanzati, dove imprese e scuole lavorano insieme per costruire la professionalità e le professionalità del futuro. Professor Del Conte, le volevo chiedere però il piano del governo per appunto gli under 32 e l'assegno di ricollocazione, appunto, che è l'altro grande piano che ha avuto fino ad ora una natura sperimentale, ma che anche in questo caso si ambisce a farlo diventare appunto strutturale. Sono due misure che possono convivere, secondo lei? Assolutamente sì, come è già stato detto. Ci sono una serie di pezzi, l'importante è che questi pezzi siano legati da una logica coerente. Allora, quando noi iniziamo con i giovani a orientarli, sappiamo che cosa dobbiamo fare sotto il profilo della formazione. Quando noi diamo degli incentivi alle imprese per assumere i giovani formati, creiamo un elemento a favore dell'occupazione giovanile. Ed è chiaro che tutto questo deve essere strutturale, sono completamente d'accordo con l'analisi di chi mi ha preceduto, a partire dal sottosegretario Boba, ma anche dal segretario Bentivogli. Cioè, noi dobbiamo creare un sistema che è a regime incentivante, quindi non è una incentivazione spot, sono servite le incentivazioni spot di questi ultimi anni, perché in una situazione di crescita praticamente nulla sono riuscite ad aumentare la base occupazionale, ma è una situazione che non può durare nel lungo periodo, quindi bisogna passare a una fase 2. La fase 2 è sicuramente creare un vantaggio per le imprese che assumono in un sistema ordinato, quindi dobbiamo avere, lei accennava all'assegno di ricollocazione, avere bene in testa che oggi il passaggio da una professione all'altra, quindi da un posto di lavoro all'altro, è un fatto fisiologico. Gli studi ci dicono che nella media un giovane che si affaccia oggi al mondo del lavoro cambierà circa 7 posti di lavoro. Quindi non possiamo più pensare che ogni volta ognuno di questi passaggi diventi una specie di trauma o di dramma personale. L'assegno di ricollocazione è in realtà una misura che accompagna nelle fasi di transizione da un posto di lavoro all'altro il disoccupato. Il disoccupato che però deve sapere dove rivolgersi, cioè deve esserci una struttura che dà risposte efficaci. Non può essere sempre il solito amico o la solita rete di relazioni personali. È qui che interviene anche il suo lavoro per la riqualificazione, se la vogliamo chiamare così, professor Del Conte, dei centri per l'impiego. Possono rappresentare un po' un punto di riferimento anche per questa iniziativa sul tema dell'assegno di ricollocazione, appunto, che lei ha in mente, che sta disegnando, perché là, come sa bene, la polemica che ha accompagnato l'attività dei centri per l'impiego negli ultimi anni è stata oltremodo variegata e sempre molto vivace. Ma non c'è dubbio, i centri per l'impiego purtroppo sono stati un po' abbandonati a se stessi negli anni passati e questo non ha creato neanche una credibilità del centro per l'impiego come uno sportello per il cittadino al quale il cittadino si rivolge, ma per forza non sono stati fatti gli investimenti in termini sia quantitativi di persona sia qualitativi di competenze. Non dimentichiamoci che spesso il personale dei centri per l'impiego è il vecchio personale degli uffici di collocamento che faceva sostanzialmente gestione di liste nominative, quindi bisogna fare un forte investimento sui centri per l'impiego e ANPAL ha messo a disposizione attraverso i fondi europei le risorse necessarie per reclutare 1000 nuovi operatori che vadano a lavorare nei 550 centri per l'impiego italiani. Non dimentichiamoci che esistono le agenzie per il lavoro che sono accreditate e quindi possono operare al pari del centro per l'impiego come soggetti intermediari nel mercato del lavoro, quindi il disoccupato può rivolgersi alternativamente o all'agenzia privata o al centro per l'impiego. Tutto questo deve essere naturalmente in sinergia, quindi il centro per l'impiego deve saper dare delle risposte, deve saper utilizzare gli strumenti messi a disposizione e quindi quando in questo autunno partiremo con l'assegno di ricollocazione deve saper dare le risposte e indirizzare i lavoratori verso l'assegno di ricollocazione come misura universale che vale in tutto il territorio nazionale per i disoccupati che sono stati espulsi dal mercato del lavoro. E poi deve anche saper, l'operatore del centro per l'impiego, così come l'operatore dell'agenzia per il lavoro, deve anche sapere orientare alla formazione per la riqualificazione del personale. Ecco. Noi per esempio abbiamo fatto questa operazione con con Almaviva, l'abbiamo fatta perché si trattava di una situazione eccezionale, drammatica, i lavoratori licenziati il 23 di dicembre improvvisamente, e abbiamo visto che accompagnando i lavoratori con anche una campagna di informazione, di valutazione delle loro competenze, di accompagnamento verso una nuova occupazione, c'è una fortissima risposta del disoccupato. Perché ecco, vede, c'è un luogo comune, purtroppo, che il disoccupato tende a, appunto, a sdraiarsi, a prendere il sussidio di disoccupazione e non attivarsi per un nuovo posto di lavoro, il che purtroppo è vero, ma è vero nella misura in cui non c'è un sistema che ti accompagna. Emotivamente non è neanche tanto facile, insomma, tirarsi sulle maniche, andare a caccia di tutte queste opportunità professionali. Tra l'altro, Deborah, volevo ritornare su alcune delle suggestioni che ci ha dato il professor Del Conte, perché lui ci dice chi entra adesso nel mondo del lavoro cambierà 7 posti di lavoro, sì. Quindi questo significa che dobbiamo essere pronti a imparare nuove cose strada facendo e continuando a lavorare o anche preparandosi a dei buchi nella propria vita lavorativa. Ma poi volevo ritornare dal sottosegretario, perché nella manovra dovrebbe starci pure una parte che si chiamerà lavoro 4.0, mm-hmm, o almeno così l'abbiamo chiamata noi su Sole 24 Ore, cioè dare un credito d'imposta alle imprese che formano i loro dipendenti, il naturale accompagnamento ad Industria 4.0, che è l'altro grande per la digitalizzazione, quindi imparare nuove competenze sul personale già presente e magari, certo, anche su nuove risorse umane. Non so se questa parte ci può essere confermata dal sottosegretario, se pertiene ad altro ministero. Ad altro ministero, sottosegretario Bobba. Voglio ricordare che nel piano Industria 4.0, Impresa 4.0, erano già previsti 700 milioni dedicati sia a un rafforzamento dell'alternanza scuola-lavoro, sia un ampliamento dell'offerta formativa degli istituti tecnici superiori, sia a un ampliamento dell'offerta di apprendistato duale, di sistema duale, cioè quindi è tutto questo orientato proprio a diciamo creare quelle competenze che oggi in molti casi mancano. Quindi sicuramente si andrà verso un rafforzamento di questi strumenti e forse anche, diciamo, l'ipotesi che, di cui anche voi avete parlato e scritto, e cioè che quella operazione fatta sul superammortamento, come ha già detto anche il professor Nannicini, possa essere concentrata anche sugli investimenti formativi, perché oggi forse questo è l'elemento essenziale per poter cogliere le opportunità nuove che il mercato dà, perché senza quelle competenze poi le imprese, diciamo, non riescono a svilupparsi. Prima avete parlato delle figure che mancano, ho ricordato, diciamo, questo incontro avuto alla Confartigianato a Milano, per esempio, in una fascia, diciamo così, di occupazione diversa, diciamo, non riusciamo a trovare i frigoristi, no? Cioè quelli che si occupano degli impianti di refrigerazione, no? Che sono, diciamo, delle figure. Ma guardi, dopo le faccio sentire la testimonianza di un imprenditore che lo stesso è a caccia di professionalità basiche, molto modeste, noi ce ne rendiamo conto, ma anche di quelle c'è bisogno, appunto, per portare avanti il nostro sistema. Però richiedono competenze tecniche oggi molto ben identificate e molto qualificate, che se non le sviluppiamo, alla fine rischiamo di avere persone che hanno magari delle competenze generiche ma non sono in grado, diciamo, poi di trovare la propria via occupazionale. Quindi rafforzare anche qui gli incentivi sulla formazione, sia quella professionale di base sia quella di, diciamo, livello e qualificazione superiore, è sicuramente uno degli elementi del piano che il governo ha, certo, diciamo, in testa per poter ripartire e soprattutto cogliere le opportunità della ripresa, perché, come è stato detto prima, senza, diciamo, quella base di sviluppo, perché anche i contratti a tempo determinato, nel momento in cui c'è una base di un respiro più lungo della capacità di creare nuova ricchezza, nuove potenzialità, questo si riverbererà anche sui contratti di lavoro. Ci dobbiamo fermare perché abbiamo adesso il prossimo giornale radio. Mauro, dai, in un altro quarto d'ora rimani con noi, così completiamo la quadra di questo ragionamento. Volevo ancora sentire Bentivogli, abbiamo la testimonianza di un imprenditore, per cui questo ragionamento dobbiamo terminarlo prima di dare spazio agli altri. Quindi il provino è andato benino. Il provino è andato benissimo, tanto che voglio farti proseguire il contratto, guarda, penso un po', senza nessun tipo di incentivo fiscale da parte di nessuno. Pensa, ma è fantastico, allora sono onorato. A tra poco. Benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin! Nel banco freezer! Ma cos'è quest'estate? Mamma dice che si è stufata di cucinarmi la peperonata, trovarmi a letto a luna passata, pagar la retta all'università. La vuoi continuare tu? No, ti ringrazio Deborah, come vedi, come sempre, dai una mano e ti prendo nel braccio. Allora, i chapter 11, cioè che poi siamo sempre noi, io e altri colleghi del Sole 24 Ore. Marco Lo Conte, Stefano Elli, con cui avete brillantemente condotto per tutta l'estate nel weekend Serpente Corallo, che è un altro grande vostro cavallo di battaglia. Continuiamo a condurre il sabato, ecco, e la domenica in replica, ma ho corrotto Peter Bescapè per mettere questo nostro brano, esatto, che si intitola però Ciusi, ti ricordi? Fu la frase famosa dell'allora ministro del lavoro. Esatto, Elsa Fornero, i giovani sono pigri. In realtà la nostra canzone dice un po' i giovani sono pigri, un po' il lavoro non c'è, quindi una specie di non prende una posizione, d'altra parte non è compito nostro. Esatto, il tema del ciusismo bisognerebbe affrontarlo veramente con fior di non solo esperti di materia di lavoro, ma forse è un contenuto, è un concetto un po' più delicato, più ampio, che attiene a tante problematiche nelle quali si cercano di credo che si colleghi direttamente anche a quanto ci diceva Bentivogli prima. Cioè, il segretario Bentivogli, c'è un problema di rappresentanza da parte dei giovani che non trovano nel sindacato spesso una sponda, e il sindacato che non trova i giovani, quindi sono due mondi che faticano a parlarsi, ce l'ha confermato lo stesso Bentivogli molto onestamente. Adesso lo sentiremo di nuovo per completare il ragionamento sul lavoro che abbiamo fatto questa mattina, abbiamo deciso di fare. Sentiremo anche la voce di un imprenditore, perché fra ragazzi che portano curriculum e li distribuiscono, li inviano a destra e a manca senza ricevere risposta, dall'altra parte abbiamo anche parlato prima delle aziende che hanno tante posizioni aperte di qualunque tipo, da quelle super tecniche a quelle più modeste, tanti imprenditori che si lamentano che però queste posizioni rimangono scoperte. Prima però, visto che abbiamo anche chiesto agli ascoltatori e dato loro la disponibilità appunto di intervenire in diretta al nostro programma, ovviamente si candidano e li vogliamo ascoltare. Sentiamo Mario da Piacenza sul tema del lavoro, che ne pensa un papà. Mario, lei buongiorno intanto. Buongiorno a lei e ai vostri ospiti. Sì, ho 55 anni, lavoro da tanti anni in una fabbrica e mi fa strano che non si trova lavoro, però in molte ditte che conosco si fanno tanti straordinari per chi già ha tempo determinato e si spreme chi c'è pur di non dare magari altre opportunità, ma magari magari sono frangenti un po' congiunturali straordinari. Mario, si cerca di risolverli chiaramente impiegando di più le forze produttive che già ci sono. Sì, quello è vero, però magari disincentivare un pochettino lo straordinario dopo tante ore, straordinario perché dipende molto anche da quante se ne fanno. E poi per una persona della mia età che lavora da tanti anni avere la possibilità di ridurre un po' l'orario di lavoro per permettere l'entrata dei giovani, secondo me non sarebbe una brutta idea. Beh, lo spirito dell'apprendistato è questo, magari ridurre l'orario di lavoro e contemporaneamente insegnare anche come tutor la sua professione a qualcuno che entra, no Mauro? E questo infatti il piano, e questo è un po' quello che dice il professor Del Conte, con l'idea facciamo un piano complessivo, perché è vero, ci sono delle misure di incentivazione per la produttività ad esempio, ma significa ovviamente andare a premiare sul personale già presente, e dall'altra parte ci sono invece delle misure che vorrebbero incentivare l'assunzione e l'ingresso di nuove persone. Bisogna che questo tipo di piano sia coerente in qualche modo, che si parli, cioè che non ci siano questi pezzi che finiscono per confliggere, come segnala questo ascoltatore. Andrea da Modena invece che ne pensa? Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Ma io volevo portare la mia personale esperienza, soprattutto riguardo alla notizia della carenza di figure specializzate come gli informatici. Io ho lavorato in aziende in cui gli informatici erano molto richiesti, però molto spesso queste persone venivano, diciamo, sottopagate, persone uscite dall'università con qualifiche e competenze pagate 800-900 euro al mese. Ovviamente queste persone con un'esperienza di questo tipo preferiscono guardare altrove, magari andare all'estero, oppure semplicemente aspettare l'offerta giusta. Certo. Questo sicuramente crea da parte delle aziende una carenza di personale. Ma se il lavoro non viene valutato per quello che vale, difficilmente si può uscire da questo. L'altra grande gamba di questo dibattito, che sembra essere proprio un personaggio che di gambe e arti ne ha mille, Marco Bentivogli. Questo aspetto sottolineato da Andrea da Modena è pur vero, naturalmente si esce dall'università, si ritiene giustamente di aver faticato tanto per portare a casa questo importante pezzo di carta, che naturalmente è molto di più. Si entra in un'azienda, si vorrebbe avere un riconoscimento, una retribuzione economica adeguata all'impegno profuso appunto per portare a casa, conseguire la laurea, ma molto spesso da questo punto di vista le aziende non la pensano esattamente allo stesso modo. Questo dibattito il sindacato come lo vede? È sicuramente vero che c'è un legame di correlazione diretta tra istruzione e raggiungimento più rapido di un'occupazione. Poi c'è il problema vero che il lavoro nuovo spesso c'è il lavoro nuovo molto ben pagato, ma ce n'è tantissimo che è pagato poco, e soprattutto con a quelli che dicono che la strategia è ridurre l'orario di lavoro, la gran parte dei giovani che fanno i lavori nella cosiddetta gig economy fanno lavori a 4 ore, per cui pensare che lo scenario sia solo quello della riduzione dell'orario, quello è uno degli aspetti. Per cui bisogna fare una riflessione, sono d'accordo con quello che diceva Del Conte, un po' più organica, più generale. Se posso fare un passo indietro, certo. È molto apprezzabile che il genitore si occupi degli skill di prospettiva per i ragazzi e per i suoi figli, ed è molto meglio rispetto a chi cerca delle buone conoscenze del potente di turno a cui far trovare un posto assicurato. Devo però aggiungere che bisognerebbe che i figli si muovessero un po' più da soli. Ecco, questo è un aspetto fondamentale, perché che i genitori seguano le spalle dei figli rispetto alle loro prospettive è importantissimo, però è molto importante che anche i ragazzi e le ragazze abbiano una propria mobilità nella ricerca e anche di quello che può cogliere le proprie aspirazioni. Uno spirito di iniziativa, certo, che spesso. Un ulteriore rapidissimo passo indietro. Abbiamo finalmente raggiunto un'unanimità sul fatto che la formazione, la competenza, il sistema di istruzione è decisivo, non per il futuro ma per il presente. Possiamo però dire che in Italia siamo un po' messi male? Possiamo dire che spesso la formazione, anche quella professionale che si fa, raccoglie l'esigenza di saturare cataloghi di centri di formazione, come alcuni felicemente hanno detto, per fare più il festival dei formatori che la formazione utile e usabile per le persone. Dico questo perché i lavoratori, quando, come il sindacato come il nostro, che dice che il diritto alla formazione è il diritto più importante al lavoratore, si riesce a fare questo salto culturale e poi si trovano a fare dei moduli di formazione che servono solo a dare degli stipendi a dei formatori, perché il welfare è una cosa è utile, ma che in alcune regioni d'Italia la formazione professionale sia un sistema di welfare per chi la gestisce nei confronti delle persone è una cosa vergognosa, io dico. per cui noi siamo sempre più d'accordo con tutti gli strumenti nuovi di politiche attive, e quello che ci davate alla fine sarà straordinario se riusciamo a portarlo a casa esattamente per le sue finalità, e cioè il credito d'imposta per la formazione incrementale che l'azienda fa da un anno all'altro, previsto appunto nel progetto Lavoro 4.0. Però poi la formazione che si fa deve essere una formazione importante, utile. I lavoratori devono capire, e le imprese prima di loro, che quella è la strada e quella è la prospettiva. Alle soglie della quarta rivoluzione industriale ha priorità, ci chiede un ascoltatore, la formazione scolastica o l'esperienza lavorativa? Sto insistendo perché mio figlio non abbandoni l'università, ma ho molti dubbi. Mauro. Probabilmente, ma non so, adesso ovviamente Bentivogli ne sa più di me e di noi sul tema, ma io credo che le due cose vadano di pari passo, cioè la formazione scolastica, un percorso scolastico, anche seguendo le proprie inclinazioni, perché no, va bene, è certo che un'attività di formazione sul campo è essenziale, ma qualsiasi azienda, il problema che noi abbiamo quando vediamo questi dati dei tempo determinato che sono così alti, lì c'è anche proprio un problema di mancato investimento sulla persona. Quindi come si fa a fare formazione se hai un contratto di 6 mesi o di un anno? Si fa una formazione per la stretta necessità, il problema di quel momento, e poi esatto. Questo vuol dire però che hai meno possibilità, quindi utile questo richiamo che fa Bentivogli, che dice no, ma premiamo la formazione in continuo che avviene in azienda. Non so se ora Deborah ci dobbiamo fermare. Ma sai che io in questo orario del mattino ancora sono un po' addormentata, no? Vedi che Peter dà delle informazioni. Lo so che tu pensavi che io ti avessi fatto rimanere qua per lanciare la tua rubrica preferita, però questa mattina niente, ti tocca solo l'impegno delle 8:15. Va bene, allora guarda, sono più leggero. Non è, ma dal 4 settembre ti faccio sbizzarrire, guarda, non preoccuparti. Ci conto. No, allora senti, facciamo una cosa, ancora un'altra gamba di questo individuo con mille arti. Sai che le imprese italiane appunto arrancano da molti punti di vista, anche se si prova in realtà a sottolineare questa ripresa economica che c'è, quindi molte imprese in realtà stanno ritornando ad avere una condizione di serenità che sicuramente per almeno un decennio è mancato nel nostro paese, da quando ormai è scoppiata questa famosa crisi dei subprime, della quale abbiamo celebrato proprio l'anniversario. So che ti sei un po' scocciato in questi giorni, però perché ne avete scritto tanto. In realtà sembra che quelle avviate in Italia di imprese da imprenditori immigrati stiano conoscendo in questi anni di crisi una crescita a due cifre. C'è un rapporto che è stato diffuso proprio nei giorni scorsi da parte della Direzione Studi e Ricerche di Banca Intesa San Paolo, e noi abbiamo voluto raccontare stamattina la storia di un imprenditore, Brianzolo, che è di origine egiziana, che non solo ha fondato una impresa di successo nel nostro paese, ma addirittura è diventato rappresentante di questo settore nell'ambito di una grande organizzazione artigiana. È presidente infatti del settore imprese di pulizia APA Confartigianato Monza e Brianza. Noi salutiamo Ahmed Zayed. Buongiorno Ahmed e benvenuto. Buongiorno. La sua storia è stata raccontata tante volte negli ultimi anni appunto da molti giornali, perché in Egitto aveva una laurea, stava per vincere anche una cattedra all'università appunto del Cairo, poi è arrivato nel 2003 in Italia, i suoi studi valevano zero, i titoli di studio, no? Ahmed, e quindi si è dovuto rimboccare le maniche andando a fare un lavoro che molti ancora in Italia non vogliono fare, a fare l'addetto appunto alle pulizie negli edifici pubblici. Noi ne vediamo anche qua, Mauro, abbiamo tanti i colleghi che fanno questo lavoro, li salutiamo, ci imbattiamo spesso appunto in loro, soprattutto per chi fa i turni molto presto o molto tardi, esatto, in azienda. E ricordiamoci che potrebbe esserci un laureato a fare questo lavoro, un laureato altrove, non in Italia, ma può esserci. Oggi Ahmed Zayed ha poco più di 40 anni e è alla guida di una delle imprese più attive della Brianza. Gestisce infatti appunto questa impresa di pulizie che lavora in oltre 25 condomini, una quindicina di aziende in gestione, ed è titolare, come dicevo prima, anche di questo ruolo di rappresentanza nell'ambito della Confartigianato. So che lei negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, insomma, è stato di nuovo, è finita la ribalta della cronaca, perché sta cercando altri impiegati ma non ne trova. E infatti, diciamo, per i lavori socialmente umili è difficile trovare dei giovani. Sentivo prima parlare il sottosegretario, che ha parlato del problema del Confartigianato. In effetti il mio settore come imprese di pulizie, come il resto di tanti altri settori del confartigianato, manifattura, servizi generali, costruzioni, fanno fatica a trovare giovani. Sentivo prima Miazza parlava che mancavano i fisici, ingegneri, chimici, però non ha parlato che mancavano anche artigiani e gente che lavora con le mani, e questo anche è un problema forse di pubblicità, perché i giovani, magari un laureato straniero può adattarsi tranquillamente a fare un lavoro manuale perché ha l'esigenza di lavorare e mantenersi da solo. Magari un giovane italiano che è laureato in ingegneria non andrà a raccogliere pomodori perché non avrà bisogno, perché avrà alle spalle i suoi genitori che gli danno ancora da mangiare. Anche sentito prima l'ospite o l'ascoltatore che parlava che il laureato va in azienda che accetta 800 euro, 900 euro di stipendio, anche se noi laureato è ancora alle prime armi di lavoro, e piuttosto sta a casa ad aspettare offerte migliori piuttosto che iniziare con questo stipendio e imparare, perché poi la qualifica viene anche nell'imparare. L'impresa anche trovano fatica a qualificare delle persone in tanti settori del confartigianato. Come vediamo, la rappresentanza straniera è molto attiva, particolarmente nella manifattura e le costruzioni e servizi alle imprese. Questo perché lo straniero forse facilmente si adatta alle esigenze del mercato e del cliente, e la conversione di marcia del mercato italiano del lavoro dopo la crisi ha costretto o ha trovato facilmente lo straniero che si adatta alla richiesta del cliente. Con un momento di crisi che ovviamente non vuole spendere tanto e cerca delle figure che possono soddisfare le sue esigenze. Vabbè, insomma, in ogni caso il problema c'è, Ahmed. Come sta cercando lei le professionalità di cui ha bisogno? Dove va a caccia di curriculum? Possiamo anche lanciare stamattina un messaggio a quegli ascoltatori che invece tutt'altro che ciusi non disdegnerebbero affatto di venire a bussare alla sua porta appunto per cercare un impiego che magari da temporaneo possa diventare anche stabile. Sì, ovvio. Si cerca sempre tramite l'agenzia del lavoro. Si cerca sempre anche a volte troverete sui giornali che fanno gli annunci che hanno bisogno di questi lavoratori generici, ma anche a volte senza esperienze. Però l'importante è avere la voglia di lavorare e di sacrificarsi un pochino in questi lavori qua, diciamo del confartigianato. L'ufficio studi del confartigianato ha fatto delle statistiche in cui trova che si può trovare facilmente uno straniero che, anche se nel proprio paese aveva tutta un'altra qualifica, sì, esatto, e può adattarsi facilmente. Qua in effetti vediamo nella provincia di Milano, nella provincia di Monza Brianza o la Lombardia, è molto attivo le imprese artigiane gestite da stranieri. Benissimo, Ahmed, in bocca al lupo per questa sua attività, per questa sua ricerca. Mauro, vogliamo concludere? Sì, assolutamente, in bocca al lupo anche da parte mia. Devo dire, su questo sottoutilizzo di laureati stranieri, che come ci ha ricordato questo imprenditore, poi in realtà è un sottoutilizzo che avviene. Noi ce ne siamo occupati anche settimana scorsa su Sole 24, ci sono dei dati di Fonte Ox che ci segnalano come spesso noi abbiamo a disposizione delle professionalità, delle competenze, delle lauree ottenute in altri paesi, ma per questioni anche a volte banalmente burocratiche, sì, di riconoscimento, non possono essere impiegati in questo modo. Ora so che con questo mi attirerò tutti gli strali di ma se non si trova il lavoro agli italiani, figuriamoci allora darlo agli stranieri, eccetera. Credo che si debba però impostare il ragionamento in un modo un po' più ampio. Di fatto è diventato normale per i giovani cercare anche delle opportunità all'estero, restare all'estero o ritornare dopo che si è stati all'estero, ritornare in Italia. Quindi il mondo si è fatto decisamente più piccolo rispetto a quello che era soltanto quando ho cominciato a lavorare io, e quando ho cominciato Garibaldi era già morto, esatto. Insomma, e già non c'era io più. Praticamente c'era ancora l'uomo di Neanderthal. E l'ultima cosa, Ahmed sottolineava anche la questione di chi non vuol più fare lavori di carattere manuale e gli artigiani, che però molto spesso non vanno a caccia di aziende per essere assunti a tempo determinato o indeterminato, ma svolgono una professione di carattere autonomo, e là c'è tutto l'ambito fiscale che li penalizza tantissimo. Mauro, so che anche su questo ovviamente il Sole tante battaglie ha fatto, ma non dimentichiamoci quanto non siano proprio esattamente professionisti che se la godono dal punto di vista economico. No, perché il nostro anche fare sistema, quella scelta là non è il proprio... nostro sistema, se posso dire, fiscale e giuslavoristico, poi ne parleremo magari a due di denari dal 4 di settembre, è ancora molto dicotomico, cioè insomma è diviso in due nettamente. Ci stanno i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. Sui lavoratori autonomi grava una presunzione di essere evasori, giustificata o non giustificata, potremmo parlarne per giorni e giorni, e poi in mezzo c'è questo terzo genere del cominciamo a lavorare, non si sa bene come, che cerchiamo di regolamentare ormai da una ventina d'anni abbondanti. E questo è probabilmente poi contribuisce a rendere il nostro approccio al mercato del lavoro un po' più confuso, perché cerchiamo di riconoscerci in alcuni schemi che sono vecchi e che faticano invece a tenere il passo con le cose che cambiano, come la tecnologia che stiamo raccontando da ieri ogni domenica su Sole 24 Ore, innovazione e il mercato del lavoro. Insomma, abbiamo affrontato stamattina un argomento davvero a 360 gradi, aprendo mille parentesi, non chiudendone nessuno. Avremo occasione di ritornare a riaprire appunto questo dibattito sicuramente prossimamente. Intanto Mauro, buon lavoro, grazie, ho portato la crostata per colazione, adesso ti lascio andare al giornale, se verso le 10 quando abbiamo terminato vuoi scendere te la offro volentieri. Ah, ma molto volentieri, ti ringrazio. Adesso andiamo negli Stati Uniti. Hai notato che l'uomo nero spesso ha un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni e che essere tolleranti poi si passa per coglioni. Sì, andiamo negli Stati Uniti, ma in realtà affrontiamo un altro tema che in questi giorni è di nuovo ribalzato agli onori della cronaca, il tema razzista, dalle iniziative contestazione appunto che stanno smuovendo molti centri americani. In realtà abbiamo anche qualche episodio italiano da raccontare, abbiamo fatto anche questa relazione questa mattina e adesso ve ne darò qualche dettaglio in più. Intanto saluto e ringrazio per essere con noi il professor Stefano Lucuno, docente di storia degli Stati Uniti d'America all'Università di Padova. Professore, buongiorno. Buongiorno. Con cui commentiamo prima i fatti che si sono consumati in Virginia nei giorni scorsi a Charlottesville, dove manifestanti appunto neonazisti, come i giornali hanno tanto raccontato in questi giorni, si sono scontrati con i militanti antirazzisti, ci sono stati lanci di pietre, bottiglie, colpi di bastone. C'è un'auto che si è lanciata contro gli oppositori dei suprematisti con un bilancio che è stato piuttosto pesante, 3 morti, 20 di feriti, e poi nelle ultime ore altre città si sono aggiunte agli scontri appunto della Virginia, anche a Boston e a Dallas sono finite nel mirino le statue dei confederati, e finalmente Trump ha detto qualcosa in più rispetto a questo iniziale commento su cui si era lanciato, che era stato da molti contestato perché non era stato troppo fermo. Ieri ha parlato di agitatori, riferendosi alle migliaia di persone che hanno manifestato a Boston e ad altre città appunto negli Stati Uniti, cioè non si sono riferite le sue parole appunto a questi che in realtà hanno preso posizione contro il razzismo e i suprematisti bianchi. Professor Lucuno, allora, suprematisti bianchi, io veramente sono rimasta molto colpita da questo concetto che è stato richiamato in questi giorni per descrivere i fatti americani. Già solo a pronunciare queste due parole sembra un concetto che fa paura, ma le chiedo che livello di pericolosità sociale più ampia hanno i fatti americani che si stanno registrando in questi giorni e che tipo di fatti del passato le hanno richiamato alla mente. Peraltro, lo ricordava anche il collega del Sole 24 Ore, Marco Valsania, ci sono alcune importanti riviste internazionali che stanno già dedicando la copertina, appunto le loro copertine, a questi fatti. C'è la copertina dell'Economist e quella del New Yorker che rappresentano Trump con in mano da una parte un megafono, da una parte un'altra cosa che adesso non mi ricordo, lo vado a pescare, comunque con il berretto lì del Ku Klux Klan. Professor Luconi, insomma, che idea ha rispetto a tutto quello che sta accadendo? Ma innanzitutto c'è una questione di tensione, di scontro razziale che gli Stati Uniti non riescono a risolvere, con delle ricadute non soltanto a livello interno, perché questi gruppi sono relativamente numerosi, si parla di circa di un migliaio di queste organizzazioni che operano negli Stati Uniti. Le incertezze del presidente Trump nel prendere le distanze, nel condannare le violenze fomentate dai gruppi dei suprematisti bianchi finiscono per avere delle ricadute anche a livello internazionale, perché a torto ragione, che ci piaccia o non ci piaccia, l'Occidente continua a guardare gli Stati Uniti e continua ad assorbire quello che succede negli Stati Uniti. Quindi c'è il rischio, nella mancanza di fermezza di Trump, di legittimare tutta una serie di posizioni razziste che poi trovano ispirazione, trovano emuli anche al di fuori degli Stati Uniti. Certo, ma professor Luconi, secondo lei, investita dalla crisi dell'immigrazione dal Medio Oriente. No, stavo chiedendomi, secondo lei questa sua mancanza di fermezza arriva dal fatto che forse, anche se non può farlo naturalmente in maniera palese, un pochino strizza l'occhio a tutto quello che sta accadendo, forse perché non si aspettava che tra tutti i problemi che deve affrontare esplodesse adesso anche questo? Ma io direi che dal punto di vista di Trump l'esplosione di questa questione è un vantaggio, nel senso che da una settimana non si parla più del Russiagate, del rischio di impeachment del presidente, del rischio comunque di discredito della sua amministrazione. Quindi diciamo che da questo punto di vista sposta l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e internazionale su altri punti. Poi Trump, come è noto, è un presidente di minoranza, un presidente che è arrivato quasi per caso alla Casa Bianca prendendo 3 milioni circa di voti popolari in meno di Hillary Clinton, che è riuscito a vincere le presidenziali grazie al voto di bianchi risentiti nei confronti delle varie minoranze etnorazziali presenti negli Stati Uniti, e quindi la sua, diciamo così, mancanza, diciamola pure, di leadership morale in questa circostanza è un po' la conseguenza del fatto che l'appoggio politico, l'appoggio elettorale dei gruppi della Alternative Right è un appoggio che a lui è molto conveniente. Professor Luconi, io devo salutarla perché adesso ho la pubblicità, poi devo approfondire altri argomenti, ma magari se tutto ciò continuerà negli Stati Uniti torneremo a disturbarla anche nei prossimi giorni. Spostare l'attenzione in maniera intelligente da un problema ad un altro e poi la mancanza di leadership morale sono due concetti molto interessanti che lei ha tirato fuori in questo momento. Mi ricordano veramente un episodio, una rapida battuta, sì, quella che si chiama sulla stampa, sui media, la guerra dei monumenti. In esatto, realtà è una guerra sul contenuto della nazione statunitense, cioè se gli Stati Uniti devono essere una serie di valori condivisi, repubblicanesimo, libertà, eguaglianza, oppure la nazione americana sia fondata nell'appartenenza razziale. Professor Luconi, allora si fermi lì, dopo la pubblicità glielo faccio raccontare che cosa significa prendere di mira le statue dei confederati. Le chiederò di farci 3 minuti di storia americana per spiegarci magari alcuni dei personaggi delle statue che in alcune aree del paese stanno provando a rimuovere, così ci togliamo tutte le curiosità, anche perché di storia americana non sa nulla, io so molto poco ovviamente, e quindi la teniamo con noi ancora qualche minuto volentieri. A tra poco. Ma cos'è quest'estate? I fatti americani. Intanto ho ripescato le due copertine di cui vi raccontavo prima, li avevo intraviste, sono state ricordate anche da Marco Valzani del Sole 24 Ore nelle pagine del Sole di sabato scorso. Chi soffia sul razzismo, Trump e il Ku Klux Klan, il tema nelle copertine di due importanti settimanali in lingua inglese, l'Economist in edicola venerdì scorso mostra proprio una caricatura di Trump che urla in un megafono a forma di cappuccio bianco del Ku Klux Klan, appunto, mentre il New Yorker proprio in questa settimana lo mostra soffiare in una vela che è anche questa un cappuccio dell'organizzazione razzista. Professor Luconi, le ho chiesto qualche altro minuto di disponibilità per spiegarci a chi non conosce tutto ciò che cosa significa prendere di mira le statue dei confederati. Sì, queste persone che sono raffigurate, per esempio il generale Lee o il presidente della Corte Suprema Roger Taney, non sono statisti, non sono strateghi militari, sono simboli del potere bianco, del primato dei bianchi sui neri, che generalmente è associato alla Confederazione, perché gli Stati del Sud nel 1861 uscirono dagli Stati Uniti per difendere la schiavitù che ritenevano messa in pericolo dall'elezione di Abraham Lincoln. Quindi questi monumenti non sono rappresentazioni storiche obiettive, non sono musei che spiegano al visitatore le vicende del passato, hanno delle finalità celebrative, quindi hanno un significato politico, e quello è celebrare la supremazia dei bianchi. Non a caso questi monumenti sono stati costruiti, sono stati eretti tra la fine dell'Ottocento e la metà degli anni venti del Novecento, quindi non durante la guerra civile, non subito dopo la fine della guerra civile, in un momento in cui era in corso un progetto di riappacificazione nazionale tra Nord e Sud, basato sul comune sforzo dei bianchi del Nord e dei bianchi del Sud di fronteggiare le rivendicazioni dei neri liberati dalla schiavitù per la parità dei diritti civili e dei diritti politici. Non a caso sono scelti alcuni personaggi particolari, per esempio James Longstreet, che era il vice di Lee durante la guerra civile, che è un grande generale del Sud, non è posto in effigie perché Longstreet, nonostante fosse un sudista, era favorevole alla concessione del voto agli afroamericani, e nel 1874, quando era capo della polizia di New Orleans, impedì che la White League, che era la versione locale del Ku Klux Klan, marciasse sull'assemblea legislativa della Louisiana. Quindi si scelgono figure particolari associate al primato bianco. Però non illudiamoci, cioè non cadiamo in analisi semplicistiche e riduttive. Non basta abbattere i monumenti per ricreare uno spirito di unità nazionale per sconfiggere il razzismo, è necessaria un'operazione culturale molto infatti, più profonda. Professor Luconi, sono destinate a durare queste agitazioni di questi giorni, a suo avviso, o a meno che sono destinate a durare sicuramente, ma sono destinate a durare come specchio di quel contrasto all'interno degli Stati Uniti tra due visioni della nazione americana, quella basata sull'appartenenza di razza, sul sangue, e quella invece basata sui principi di eguaglianza e di parità tra gli individui. Torneremo a parlarne intanto, professor Luconi, perché ho ancora tanti ospiti, per parlare anche del razzismo all'italiana, perché anche qua noi qualche episodio ancora lo abbiamo, non ci piace per niente tutto questo, ma dobbiamo comunque portarlo all'attenzione pubblica. Intanto grazie per essere stato con noi, buon lavoro con i suoi studi, a presto. Grazie a voi e buona giornata. Avevamo Toto Cutugno, ma non fa niente se non lo mandiamo, pazienza, andiamo avanti con il nostro problema. Sì, lo so Peter, ho ripreso dalle ferie oggi dopo una lunga assenza, per cui siamo un po' tutti ancora addormentati. Detto questo, questo non cambia appunto il senso del prossimo approfondimento, che si lega anche a quello che abbiamo appena raccontato col professor Luconi, da quello americano a quello in salsa italiana. Allora, in questi giorni abbiamo letto di un po' di episodi, l'ultimo è quello che si è consumato a Cagliari, dove ci sarebbe stato questo scontro non ci sarebbe, c'è stato, perché è stato documentato anche da molti video pubblicati da molti giornali online. Questo scontro tra bagnanti, questa lite sulla spiaggia per difendere un giovane ambulante senegalese che era stato aggredito, adesso non so quanto fisicamente, sicuramente molto verbalmente, da alcuni turisti nella spiaggia di Poetto a Cagliari. Alcune persone hanno cominciato ad inveire contro questo ambulante che era difeso da altri, sarebbero nate queste tensioni per un diverbio su un vestito, ma non sappiamo appunto se ci fosse dell'altro. Invece un po' peggio è successo a Cervia, dove un hotel ha rifiutato di assumere, anche se era solo per la stagione estiva, un giovane cameriere italiano 29enne residente a Milano, brasiliano di origine, quindi questa magnifica pelle ambrata con tanta esperienza nel settore, che si era candidato, appunto era pronto a partire, già assunto, quando poi l'albergatore ha scoperto che però il suo colore non era esattamente bianco, ecco, gli ha detto: guarda, io non posso assumerti perché ho, come dire, dei clienti che non sono molto aperti nel punto di vista della mentalità e mi farebbero dei problemi appunto se vedessero che la persona che serve ai tavoli è del tuo colore. Insomma, io ho sintetizzato, ma la vicenda è questa. Noi abbiamo chiamato la mamma di Paolo, questo ragazzo appunto di Cervi, al quale è stato negato il lavoro perché di colore. Paola, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. Come sta Paolo intanto? Che cosa dice di questa vicenda? Si è fatto una risata? Ha trovato poi un'alternativa o tutto sommato, insomma, si è creato anche un po' di dispiacere in famiglia per l'accaduto? Ma sì, mio figlio in intervista, l'unica intervista che ha accettato di fare, che è comunque sul web, lui ha sintetizzato con una parola che mi sembra molto significativa le emozioni che ha provato quando ha ricevuto quell'SMS della vergogna, come è stato. Ah, perché lo ha anche avvisato con un SMS, neanche tirato. Sì, sul telefono. La vicenda è questa, che lui doveva partire domenica, la seconda domenica di giugno. Il venerdì precedente, venerdì sera, l'albergatore gli ha chiesto di mandargli per email la carta d'identità in modo da cominciare a formalizzare il contratto di lavoro. Quando l'albergatore ha ricevuto la carta d'identità, ha guardato la fotografia e si è reso conto che mio figlio è nero. Il sabato mattina successivo, cioè dopo poche ore, l'albergatore gli ha mandato un SMS dicendo: Paolo, mi dispiace, non puoi più venire perché sei di colore sai, qui in Romagna siamo arretrati e io non posso assumerti. Questo è stato il suggello di questa opportunità di lavoro che mio figlio aveva avuto. Paolo, ha trovato qualcos'altro da fare nel frattempo? No, perché nel frattempo metà giugno, si era arrivati ormai a metà giugno e dunque l'opportunità di lavorare, di fare la stagione ormai era persa. Mi dispiace Paolo, insomma gli ha detto: non posso mettere ragazzi di colore in sala, esatto, qui in Romagna esatto. La gente molto indietro come mentalità. Peraltro, considerazione che noi neanche tanto condividiamo, perché no. Dal punto di vista per esempio delle politiche sociali questa è una regione che fa tantissimo, delle iniziative incredibili, quindi chissà che non ci sia dell'altro. Un po' adesso io non abbiamo l'albergatore al telefono e quindi magari dico delle cose sulle quali mi avventuro e ne pagherò anche le conseguenze, che non sia un'iniziativa del tutto individuale da parte sua, che invece magari non si fidava fino in fondo di questo. Quanti anni ha Paolo? 29 anni. E quindi insomma sarebbe anche ora che trovasse un impiego, povero Paolo, definitivo nel tempo. Sicuro, esatto, perché di lavoro ne ha fatte tanti, ma come tanti giovani italiani si muove nella precarietà. Però, e qui mi riallaccio anche a quello che diceva l'imprenditore egiziano, sì. Mio figlio ritiene che comunque ogni occasione di lavoro, per quanto precaria, sia un'opportunità di formazione professionale. E dunque, lui non vive come un dramma la precarietà in questo momento. O il fatto di fare una stagione turistica servendo a tavola. Poter continuare ad avere opportunità per... Questa era molto interessante. Poi appunto è successo questo episodio. Come giustamente diceva lei, la reazione di mio figlio è stata... Lui ha usato questa parola, tristezza. Anche perché la Romagna è un territorio storicamente accogliente e ospitale. Ma assolutamente. E dunque questa sì. giustificazione che l'albergatore ha trovato, abbiamo proprio fatto fatica a comprenderla, proprio conoscendo. Senta Paola, perché è venuta fuori solo adesso questa vicenda? Non l'avete segnalata adeguatamente? Non ci avete pensato a farlo subito? Piccolo passo indietro, noi siamo una famiglia multietnica e dunque abbiamo una sensibilità riguardo al tema dei diritti e del razzismo che attiene anche proprio alla nostra identità di famiglia. Quando è successa questa cosa, il nostro pensiero è stato abbiamo subito una violenza sull'identità, perché dire a una persona tu sei nero e dunque non lavori è una violazione della propria identità personale. Certo. Ma abbiamo pensato che fosse utile trasformare questa sofferenza in un'opportunità. E un'opportunità, come diceva il professore a proposito degli Stati Uniti, per stimolare una riflessione, per far crescere in Italia le operazioni culturali e civili contro le discriminazioni e il razzismo. Paola, io devo salutarla perché ho altri ospiti e peraltro credo che un blocco del nostro programma risalti di nuovo, già lo stiamo slittando da 2 o 3 giorni. Comunque Paola, intanto ci saluti tanto suo figlio, noi gli facciamo tutti i nostri migliori in bocca al lupo a fronte di un albergatore, di un ristoratore che non ha voluto prendere questa opportunità anche per una sua crescita personale. Ce ne saranno altri 100 che sicuramente approfitteranno invece dell'apertura mentale di Paolo e della famiglia dalla quale appartiene. Noi la ringraziamo, adesso abbiamo il traffico, poi andiamo ad un altro caso, sempre un po' di razzismo, quello della ragazza 15enne di Verona rifiutata al concorso Canoro perché sei straniera, le è stato detto. Ma cos'è quest'estate? E l'altro caso che vogliamo raccontarvi è quello di Dora, 15 anni, terzo anno di liceo classico, il sogno di diventare una cantante. Lei è italiana, è nata in Italia, la sua famiglia, oltre a lei i genitori e altri 3 fratelli, vive in Italia da più di 30 anni, ma la sua carnagione è nera e non è piaciuta agli organizzatori di un importante concorso Canoro di Verona. Manuel è il fratello di Dora, noi lo salutiamo. Manuel, ci racconti questa vicenda? E quando è successo, intanto, come l'ha presa Dora, immagino male, soprattutto a fronte della spiegazione data per il rifiuto, ci riproverà Dora? Cosa è successo? Buongiorno intanto. Buongiorno. Fondamentalmente il tutto è accaduto lunedì, lo scorso lunedì, e Dora aveva chiesto semplicemente alla pagina di questo concorso delle informazioni generali e la risposta immediata è stata non accettiamo stranieri, e nel momento in cui mia sorella ha fatto notare di non essere straniera ma italiana al 100%, la risposta è stata italiani si nasce e non si diventa, la classica frase che ogni tanto si sente pronunciare dai cosiddetti patrioti. Con il dibattito sullo Ius Soli di questi giorni, che peraltro è stato ancora una volta richiamato ieri dal Premier Gentiloni dal palco di Rimini del meeting di CL, ho fatto questo inciso, Manuel, solo per ricordare che il tema c'è, importantissimo, ma che in realtà poi a voi riguarda relativamente perché siete qua da sempre, è nato qua. Dora, come sta adesso? Ci riproverà a partecipare ad un altro concorso? Ci riproverà sicuramente perché è veramente il suo sogno e sicuramente all'inizio è stata una doccia fredda, ci è rimasta molto male nel momento in cui mi ha inviato le foto che provavano, insomma, i messaggi che aveva ricevuto, cercava solo del conforto e diciamo qualcuno a cui aggrapparsi. E adesso sta meglio perché diciamo ha avuto tanti messaggi diciamo di comprensione, messaggi clini in generale, e quindi adesso si è ripresa. La mia preoccupazione maggiore era il fatto che lei avesse 15 anni, che probabilmente non avesse la struttura mentale per poter reagire a una frase a prendersi, certo, una sberla di questo tipo. Esatto. Manuel, salutacela tanto, noi le facciamo naturalmente i nostri migliori auguri per vivere pienamente questa sua vocazione, affinché naturalmente diventi la sua strada, se questo è quello che desidera. So che anche il sindaco di Verona ha preso le sue difese e quindi naturalmente adesso occhio anche a questi concorsi, addirittura che si prendono la briga di come dire no ad un candidato per ragioni di pelle. Ci sembra veramente che abbia dell'incredibile questa vicenda. Manuel, grazie, bocca al lupo per tutto. Per l'ultima parte del nostro programma rapidamente andiamo qui ce l'abbiamo adesso un brano per fare il cambio di tema. Peter, prego. Pino e fucile d'occhiali, il Mediterraneo, una tavola blu, l'Italia corre con altre due storie velocissime, quelle che vi raccontiamo e con le quali vi vogliamo descrivere le iniziative che ci sono in giro un po' per l'Italia per provare a difendere le bellezze delle nostre coste, delle nostre spiagge. Iniziative da una parte di qualche primo cittadino e dall'altra parte di imprenditori privati. Salvatore Corrias, il sindaco di Baunei, buongiorno. Ho messo bene l'accento, sindaco? Benissimo, buongiorno a voi e a chi ci ascolta. Buongiorno. Questo Baunei nel Golfo di Orosei, esattamente parliamo di Cala Biriola, che è veramente ecco, vede che da una parte l'accento lo dovevo sbagliare, devo venire a trovarvi al più presto, sì, per pronunciare tutto correttamente. Un buon motivo. Centro orientale della Sardegna, nei mesi estivi quest'area rischia di esplodere per le troppe barche, per l'enorme numero di visitatori che vi accorrono, cosa che a lei non dispiace naturalmente, ma che comunque ha dovuto gestire in qualche maniera, prendendo anche un'iniziativa che a molti è apparsa un pochino impopolare. Detto questo, ha dovuto emettere un'ordinanza per limitare gli accessi. A quanti, sindaco? Cosa è successo esattamente? Allora, la nostra costa è talmente bella, talmente attrattiva, che negli ultimi tempi davvero sta attirando tantissime persone. Negli ultimi tempi ci siamo resi conto che non si poteva più sopportare, specie negli arenili più piccoli, qual è Cala Biriola, un carico antropico così forte. Quindi abbiamo deciso, meditandola per tempo, con un'ordinanza, di indicare il numero, un numero chiuso, un numero comodo, un numero ragionevole sui 300. L'organizzazione è tale per cui in diverse fasce orarie, sia le imbarcazioni più piccole che i natanti più grandi, ricordo fra l'altro che c'è un limite fino a una lunghezza di 24 metri, ecco, in quelle fasce orarie possano stare e starci in maniera appunto comoda e possano stare in santa pace, perché questi arenili più piccoli, Cala Biriola, che si trova tra Cala Luna e Cala Golorizè, sì, sono belli, sì, sono seducenti, profondamente attrattivi, però bisogna viverli bene, perché c'è un habitat a mare, a terra, nel supramonte marino, delicatissimo, tant'è che è un'area riconosciuta anche dall'Europa come sito di interesse comunitario, e in quanto tale questo habitat va salvaguardato e rispettato, rendendolo vivibile ai tanti visitatori che ogni anno di più vengono a farci visita. Come è stata presa questa iniziativa, sindaco? Ma devo dire bene, bene dai residenti, bene dagli stessi visitatori, consapevoli del fatto che questo non è un punto d'arrivo, è un punto di partenza in un percorso di valorizzazione del territorio di quest'area costiera e supramontana del mio comune, ma non solo, che deve andare avanti, nel senso che questo è solo un inizio, è l'inizio di un approccio gestionale, anche politico, al territorio che necessita appunto di misure di questo tipo. E un'altra iniziativa che sarà stata sicuramente presa molto bene da chi non sopporta il fumo, ma magari all'aria aperta si può anche disperdere, lo si può anche tollerare, ma soprattutto tutti i mozziconi che generalmente convivono con la sabbia, sarà stata sicuramente l'iniziativa presa a Savona Bagni di Sant'Antonio delle Fornaci da parte dell'imprenditore Daniele Dalmasso, che gestisce con sua moglie questo stabilimento Trento vicino Savona e ha imposto l'assoluto divieto di fumo, adottando naturalmente delle buone pratiche per la ecosostenibilità di questa area. Buongiorno Dalmasso, purtroppo ho 2 minuti di tempo per lei, ma sono più che sufficienti per raccontare questa sua iniziativa, che magari tra i fumatori non sarà stata tanto popolare, ma insomma, divieto totale di fumare nello stabilimento che lei gestisce. Buongiorno. Buongiorno. Allora, posso correggerla, perché non è stato imposto un divieto di fumo, perché non abbiamo neanche l'autorità per farlo. Certo, un invito? È un invito a chi fuma di non fumare sulla spiaggia. Chiediamo ai clienti che fumano di non utilizzare la spiaggia durante le giornate per fumare. Abbiamo stato un ricambio di avventori del suo stabilimento, quindi chi vuole fumare adesso non viene più, oppure hanno colto... No, perché abbiamo una clientela molto affezionata, che sono anni che ci seguono, anche i fumatori hanno apprezzato questo fatto, perché abbiamo individuato 2 aree fuori dalla sabbia, non nella zona sabbiosa, ombreggiate con dei posacenere, dove chi fuma si alza dalla strada. Ha creato quindi l'isola destinata al fumatore. Esatto, quindi anche i fumatori sono contenti perché hanno il posto dove fumare senza disturbare nessuno e quindi convivono pacificamente tutti. Certo, senta Dalmasso, ma lei questa iniziativa l'ha presa perché c'era qualche cliente che si lamentava del mozzicone a terra, del fumo che disturbava, o è stata un'iniziativa presa di sua spontanea volontà perché comunque è una persona che magari non fuma e quindi non le piace questa pratica? Com'è maturata l'idea? Purtroppo abbiamo solo 30 secondi, ma ce la facciamo. Allora, velocemente, l'idea è nata non individualmente, ma siamo un'azienda familiare, quindi una decisione collettiva della famiglia, siamo io, mia moglie e 3 figli che decidiamo tutte queste cose. Le lamentele che abbiamo avuto non sono dovute ai mozziconi, anche perché i nostri clienti che fumano e che fumavano sono persone educate, sono dotate di posacenere, quindi i mozziconi sulla spiaggia rarissimi. Il problema era il vicino di ombrellone che alle volte fumando disturbava chi non fumava, l'altro, specialmente se c'erano dei minori. E quindi ha preso questa iniziativa. Dalmasso, grazie. Come sente dalla sigla, noi stiamo chiudendo, ma abbiamo capito lo spirito che ha animato la sua iniziativa. Noi con Ma cos'è quest'estate torniamo domattina. Buona giornata.